te. Di quello che pensi veramente. Ma di chi parli sempre? Parli degli altri o racconti un po' delle tue cose? Ti prendi male quando dici la tua? E soprattutto quando ti accorgi che è pura verità. Ho voluto un cannone in cuffia e nella mano un cannone che sbuffa. E se vivi una truffa ingiusta, poi nel gioco dei pacchi scegli la busta. Ho il volume a cannone in cuffia e quando rappo la faccia buffa. E se vivi una truffa ingiusta, punta il cannone alla testa e tutto s'aggiusta. Comunque sia io continuo la mia, sia nel bene o nel male, comunque senza magia. Faccio tardi la notte, scrivo e non sono un saggio. Ogni dì di passaggio è solo un omaggio. E mi rendo conto, vivo da personaggio e racconto sullo sfondo solito paesaggio. Non ho equipaggio, viaggio solo, da solo ne risento, ma solo da solo lo sento. Con la droga ti fotti con le tue mani, per la droga stringo il doppio delle mani. Per la figa largo il buco alle mani. Se poi così non fotto, fotto con le mie mani. Sono indipendente, vivo di dipendenze. Non resto indifferente, noto le differenze. Le mie frequenze, frequentemente, mi rendono differente, causano diffidenze. Ho volume a cannone in cuffia e nella mano un cannone che sbuffa. E se vivi una truffa ingiusta, poi nel gioco dei pacchi scegli la busta. Ho volume a cannone in cuffia e quando rappo la faccia buffa. E se vivi una truffa ingiusta, punta il cannone alla testa e tutto s'aggiusta. Non me ne frega poi tanto di quello che sai. Molestamente parlando vado scordando. Dovrei accordarmi meglio per suonarti una serenata rap mentre fuori piove. Porco, dovrei vantarmi di più. Girare in casa in vestaglia col bocchino e la canna. Ma qui chiedono di più. È una lotta per la fame, non c'è fame. È solo una gran voglia di potersi in pane. A vicenda, una faccenda sporca. E che si fa? Raga, che si fa? Che s'accenda, un'altra torcia, bella roccia, mi asciugo una canna alla goccia. Cambiamo argomento, mi chiedi di essere serio e attento, il meno possibile me stesso, ma vero allo stesso tempo, al tempo stesso credibilmente contento. Ma non lo sai. Un volume a cannone in cuffia e nella mano un cannone che sbuffa. E se vivi una truffa ingiusta, poi nel gioco dei pacchi scegli la busta. Un volume a cannone in cuffia e quando rappo la faccia buffa. E se vivi una truffa ingiusta, punta il cannone alla testa e tutto s'aggiusta. E la gente è curiosa e perlustra, illustra che non ne fai mai una giusta. E se la vivi una truffa ingiusta, e poi nel gioco dei pacchi scegli la busta. Anni su anni su anni seguo una linea, e rime su rime su rime prima la sigla. Ma se la vivo una truffa ingiusta, finché in mano il cannone ce lo si gusta. Un volume a cannone in cuffia e nella mano un cannone che sbuffa. E se vivi una truffa ingiusta, poi nel gioco dei pacchi scegli la busta. Un volume a cannone in cuffia e quando rappo la faccia buffa. E se vivi una truffa ingiusta, punta il cannone alla testa e tutto s'aggiusta.